L'uomo e la biscia, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Un uomo vide una biscia e disse: «Un beneficio, se io l'uccido, farò di certo a tutto l'universo». E l'animal perverso, dico la biscia, e prego non confondere con l'uomo che è molto facile, è preso, dentro un sacco rinserrato e colpevole o meno, io non decido a morte condannato. Per dargli tuttavia qualche ragione, l'uomo gli sfoderò questo sermone. O simbol degli ingrati, è verso i tristi stoltezza la pietà. Or muori e il tuo velen più non contristi la mesta umanità. A questo dir in sua voce dolente risposegli il serpente. Oimè, se tu condanni quanti sono al mondo ingrati, a chi darai perdono? A te, fratel, tu stesso con le parole tue muovi il processo, ond'io ritorco in te quegli argomenti che tu per gli altri inventi. I giorni miei distruggere tu puoi, perché così conviene solo al tuo bene ed ai capricci tuoi. L'uomo comanda e regge, è libito fallicito in sua legge, ma lascia ch'io dichiari con estreme parole mie che il serpente non è, ma ben è l'uomo degli ingrati il re. L'altro rimase come l'uom che teme a questo dire, e quindi a lei rispose: «Sono ragioni insipide e noiose, che potrei tagliar corto, e tuttavia rinuncio al mio diritto e vo', che sia nell'affare alcun giudice invitato». E il rettile: «Accettato». Una giovenca vien chiamata in mezzo, ascolta poi risponde: «La biscia n'ha ben d'onde, se si lamenta, è chiara come il sole. Quando ho veduto il prezzo io dei servigi miei, da cui l'uomo suole trarre ogni giorno il vitto? Sempre per lui, tutto per lui, non mai per me, per i figli miei qualche profitto. Col latte e coi vitelli egli ingrassò, si riempì la mano. Io lo mantenni sano contro i danni del tempo alle mie pene, e deve, se poté, vivere sempre allegramente e bene. Ed ora ahimè, perché son vecchia, senza un fil di fieno, mi lascio in un cantuccio. Ho dato almeno mi fosse di brucar quattro fogliette nel prato. No, mi tiene legata alle catene. L'avrei creduto verso me più pio se fosse stata un'anima di serpe. Ho detto quel che penso e chiaro, addio». Poco contento l'uomo della sentenza, allor disse alla biscia: «E credi a questa scema, a una vecchia bisbetica che trema nel cervello? Sentiamo un poco il bue, sentiamo pure le ragioni sue». A lui risponde l'animal che striscia: «Se viene il bove lento e dopo un lento e lungo ruminar apre la bocca, e viene che da molti anni gli tocca ad ogni fatica e ruvido tormento, eterna litania di tutti i mali, sempre a titar costretto ciò che cerere all'uomo agli animali offre nei campi suoi. Qual era il premio riservato ai buoi? Botte a bizzeffe e assai poco rispetto, finché vecchi e scannati sull'altare andavan del lor sangue ad implorare, a titol quasi d'onorificenza, dei peccati dell'uomo l'indulgenza. O noioso, va via declamatore», ancora grida il padrone, «e credi forse con le parolone farti del tuo signor l'accusatore? Non ti conosco, stupido, ma questo albero qui presente dica da tronco onesto quel che pensa di me sinceramente». Ma l'albero, chiamato a dire il vero, fu ancora più severo. Egli era contro il caldo e contro il vento e contro l'uragano un buon ombrello. Egli era dei giardini l'ornamento e nei campi non sol d'ombre cortese, ma ancor di frutti saporito e bello. E ben per sua mercede un rozzo arnese eccolo abbatte al suolo. Invan all'uomo è l'albero gentile di fior nel dolce aprile. Invano a lui di pomi empie il cestello. Invan d'estate le sue foglie spiega e nell'inverno allegra il fogherello. Dei miei difetti mi corregga pure l'uomo, ma non adoperi la scure e non tronchi la vita a chi mi serba natura con la sua mano superba». Irato l'uomo, ch'altri lo confonda, volle la lite vincere per forza e disse: «Sciocco me che ascolto queste fanfalucche moleste». Nella vendetta il suo coruccio smorsa, battendo il sacco contro ad una grotta, infin che il serbe ebbe la testa rotta. Fine della favola. L'uomo e la biscia. Questa registrazione è di dominio pubblico.